Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua, alle 2.30 di questo sabato 24 novembre, anzi le 2.30 sono di domenica 25, ma noi stiamo vivendo il sabato, non del villaggio, ma il sabato del convento, il sabato Dinner and Dance. Siamo qua negli studi di Risto Radio Convento e io sono Mr. Dave e sto sostituendo Master Nick, che in questo momento ci sta ascoltando a casa, anzi da Bologna, probabilmente a letto, e sono qua in compagnia di due ragazze stupende di cui non conosco assolutamente nulla, ma so che cederò il microfono a una di queste due e ci dirà tutto. Signore e signori, buonasera ragazzi, io sono Sara, scusatemi per la voce, ma è stata una serata incredibile qua al convento di Lonato del Garda. È davvero fantastico questo posto, non c'ero mai stata, veniteci perché è davvero fantastico. Io intanto ringrazio Mr. Dave, ci ha invitato nel suo spazio privato, davvero molto accogliente. Io sono Sara, mi ripeto, sono qua in compagnia della mia collega, amica, coscritta Beatrice. Ciao a tutti. Ciao Bea. Ciao. Qui noi. Siamo qui questa sera perché abbiamo festeggiato insieme ai nostri coscritti, che dai vetri ci fanno un po' di facce, ridono, ci fanno un po' divertire, un po' sorridere. Abbiamo festeggiato i 25 anni, noi siamo coscritti 1993. È stata una serata incredibile, abbiamo mangiato bene, abbiamo mangiato tanto. Siamo arrivati un pochino tardi, ci siamo persi il buffet, ma è comunque una cosa incredibile. Arriviamo dalla Val Seriana, poi originari, quindi abbiamo fatto ma non siete scuole... molto serie però, devo dire, non siete molto serie. In che senso, Mister Dave? Io mi aspettavo che quelle della Val Seriana fossero un po' serie, invece non è vero. Magari siete... un po' più grezzi. No, non in quel senso. No, allora diciamo che c'è l'eccezione. Allora, siamo due paesi in realtà questa sera, l'Effepeia, quindi ci troviamo nella Val Gandino, media valseriana. Ah, sì. Media valseriana, sì. Vorrei precisare che la maggior parte di noi si è trovata proprio questa sera, perché tanti non vivono più in valle, però prendiamo tutti gli anni questa bella occasione per alcuni di noi, la maggior parte, ritrovarci. E siete cresciuti in pratica dall'asilo? Abbiamo fatto elementari e medie insieme, infatti siamo due paesi insieme, Feppeia vorrei precisare. E poi durante le superiori ci siamo persi, ma ogni anno verso la fine dell'anno, con la scusa dei coscritti, ci ritroviamo per questi bellissimi momenti. E questo è bello. Sì, quanti siete questa sera? Questa sera siamo in 19, sì, ragazzi e ragazze, ci stiamo divertendo tantissimo. Io vorrei salutare tantissimo i miei ragazzi qua davanti, perché sono fantastici, i nostri coscritti ridono, li saluto tantissimo, sono dei grandi. Una bellissima serata ragazzi, davvero venite al convento perché è fantastico. In questo momento non ci stanno ascoltando perché stanno ballando nella pista, quindi rifaremo sentire. Il podcast assolutamente, assolutamente. E tra l'altro anche durante la settimana, durante la programmazione nel palinsesto giornaliero, ci sarà a random anche la vostra intervista. Fantastico, io lavoro in uno studio dentistico, ragazzi, mi metterò su Radio Convento. Risto Radio Convento. Risto Radio Convento. È una web radio. Perché farò sentire ai miei pazienti la voce di questi giovani e la mia Bea. Aspettiamo anche le tue richieste, perché sai, potete mandarci una richiesta, vogliamo ascoltare questa canzone e noi la mettiamo e faremo la dedica assolutamente agli amici dello studio dentistico. Di dove? Dottori Vitali, io mi permetto. Certo, abbiamo uno studio, ci mancherebbe. Abbiamo uno studio, almeno uno studio a Terno d'Isola. Io sono orgogliosissima dei miei dottori. La Bea, la mia collega qui a fianco, collega coscritta, è una dottoressa, non è odontoiatra, ma è odottoressa, lavora con i bambini, quindi è anche lei nel giro un po' medico. Quindi. Guarda, io ho un lunedì diamo un occhio, Bellissimo. E quindi 1990. 93, sono arrivati anche per noi 25 anni, speriamo di portarceli bene. Io li porto bene, ragazzi, perché me ne danno di meno. Questo quindi... lo devo confermare, lo posso confermare e lo confermo. Ecco. Schiaccio anche il pulsante. Ecco, confermo. Un punto a favore per il convento, che è uno dei pochi locali dove non mi ha chiesto la carta d'identità, perché di solito i 18 anni non me li danno. Quindi sono entrata con molto piacere qui. Quindi preferirei sì me ne dessero comunque. A questo punto preferirei che mi diano comunque la mia età, ma dico sempre, quando avrò 50 anni me ne daranno 25. Michela? No, aspetta, mi perdo perché abbiamo fatto. Io sono Sara. Sara. Io sono Sara. Sara, sì, Sara, sì, Sara. Sì, sì. Sara. Non è più primavera, ma è quasi inverno. Sara, mi sono perso, adesso volevo chiederti, ma come mai sei così spigliata? Mi dicevi? Allora, io, come sei dicevo DJ, adesso, sei DJ, no, sei. Allora, io ho fatto una breve carriera all'interno di una piccola radio locale, a Clusone, e ho fatto anche... Nome di questa radio? Allora, la radio si chiamava Radio Loco, non so se tuttora trasmette. E facevo anche dei servizi alla televisione collegata a questa radio, si chiama Teleclusone. Ho fatto dei servizi, degli speakeraggi, quindi bello, sono già un po' inserita. Complimenti, sì. Perché grazie. si vede la professionalità, grazie. La scioltezza. Io amo questo mondo, E noi ti aspettiamo. Ma io vengo molto molto volentieri se mi invitate. Noi ti aspettiamo, no? Ti apriamo queste porte, questi studi, perché no? Bellissimo, questo studio rosso poi è fantastico, quindi tornerò molto volentieri. Benissimo, allora salutiamo le nostre amiche di Clusone. Peia e Leffe, sono i due paesi, che festeggiamo. I coscritti del 1993, in compagnia di Beatrice e Sara. Beatrice è un po' timida? No, diciamo che è la mia prima esperienza, per cui adesso lo segnerò in curriculum. È senz'altro simpatica. Benissimo, ciao ragazze, grazie della compagnia. Grazie a voi. Grazie a voi. E buonanotte a tutti. Buonanotte.